Buongiorno a tutti, sono Luca, oggi è il 5 ottobre 2020, faccio questo audio a beneficio di tutti, molto breve. Immagino che la maggior parte di voi abbia già letto il ricorso di fronte alla Commissione Centrale per coloro che esercitano le professioni sanitarie, il ricorso presentato dallo studio legale che assiste e difende il dottor Dario Miedico, che considero una persona di grande spessore morale e di grande onestà intellettuale che conosco personalmente. Nel ricorso depositato, lo studio legale, a firma degli avvocati Valerio Unida e Randazzo e associati, e faccio presente che il professor Valerio Unida è presidente emerito della Corte Costituzionale, cioè ha presieduto il massimo organo giurisdizionale italiano che sorveglia e tutela il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e quindi giudica tutti i ricorsi in via principale o in via incidentale che sollevano la questione di legittimità costituzionale. Quindi ha una pregressa esperienza ai massimi livelli giuridici, professor Valerio Unida. Nel ricorso a difesa del dottor Dario Miedico, che come sapete è stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ordine Provinciale dei medici e dei chirurghi odontoiatri di Milano a causa delle sue esternazioni in ambito vaccino profilassi. Nel ricorso lo studio legale Unida Randazzo e associati pone l'accento anche sulla Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sull'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana. La difesa, questa memoria difensiva a firma di questi legali, risale a settembre 2020. Io l'ho letta solo un paio di giorni fa, un giorno fa, e sono felice che questo studio legale, con il contributo e il lavoro di questo presidente emerito della Corte Costituzionale, ponga l'accento sulla Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e soprattutto sull'articolo 117, che prevede per iscritto appunto che l'Italia debba rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del diritto comunitario. Quindi la Carta di Nizza, che è citata dalla Carta di Lisbona, dal Trattato di Lisbona, che ha riformato il Trattato sull'Unione Europea, è equiparabile a un trattato internazionale. L'Italia è obbligata a rispettare la Carta di Nizza. La Carta di Nizza ha effetti giuridici vincolanti sul territorio italiano. Non so se mi spiego. E questo è dovuto non solo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, quindi per tutti i cittadini dell'Unione Europea la Carta di Nizza ha effetti giuridici vincolanti, ma questa cosa è rafforzata dalla riforma del Titolo V, che è avvenuta 19 anni fa e che ha introdotto appunto questa variazione al Titolo V, e non solo all'articolo 118 della Costituzione, ma anche in altri articoli, e anche nell'articolo 117 è stato riformato introducendo rispetto degli obblighi nell'ambito del diritto comunitario. La Repubblica Italiana deve rispettare gli obblighi dell'ordinamento comunitario, fra cui quindi anche la Carta di Nizza. Questa cosa io l'ho ribadita diverse volte nei mesi scorsi, sia in audio, e la Carta di Nizza ne ho posto l'accento anche anni fa. Per quanto riguarda l'articolo 117, ho recepito il contributo giuridico del professor Daniele Trabuco, a cui mi rivolsi mesi fa per un commento sull'ordinanza di rigetto del reclamo di fronte al Tribunale di Trieste, sezione civile, con cui il Collegio del Tribunale di Trieste respinse il mio reclamo per la riammissione a scuola di mio figlio e soprattutto per il sollevamento della questione di legittimità costituzionale. Il professor Trabucco disse che comunque il Collegio di Trieste avrebbe dovuto tenere conto della citazione della Carta di Nizza che fece il mio avvocato, soprattutto in forza, in virtù dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi, come vedete, c'è una convergenza nell'ambito delle scienze giuridiche, nell'ambito dei pronunciamenti giurisprudenziali, nell'ambito dei contenziosi. Vedete che anche avvocati che non hanno finora collaborato a azioni civili a difesa dei diritti umani, dei diritti civili, quindi che si sono esposti particolarmente dal punto di vista mediatico, anche quindi professionisti di grande calibro come il professor Valerio Unida, che comunque mediaticamente si è fatto sentire più volte sui valori della Costituzione della Repubblica, ecco, anche professionisti insospettabili convergono, no, verso una tutela dei diritti umani e civili che pongono grande enfasi, e non è retorica, sulla Carta di Nizza e soprattutto sul rispetto dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, che la maggior parte dei politici ovviamente purtroppo, come vedete, stanno ignorando nella valenza e nelle implicazioni. Cioè non si rendono conto i politici italiani, soprattutto quelli che fanno politica sanitaria, della gravissima violazione dei diritti e di libertà tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e anche quindi della violazione di diritti e garanzie costituzionali. Ciao a tutti da Luca Scantamburlo.